Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccomi qui pronta per iniziare una nuova settimana insieme. La vostra salutare ossessione quotidiana non vi lascia. Resto con voi e a vostra disposizione con gli esperti che ogni giorno intervengono in diretta. Mi piace pensare a questa mezz'oretta che trascorriamo ogni mattina insieme come uno spazio di incontro e di confronto, sicuramente per mantenersi aggiornati, ma soprattutto per ricevere consigli, suggerimenti, per rendere più accettabile la nostra nuova quotidianità, così diversa da quella di qualche settimana fa, una quotidianità che sicuramente ci sta stretta, che crea qualche disagio, ma che dobbiamo assolutamente imparare a organizzare e a vivere bene, proprio per valorizzare anche le opportunità che ci offre. Restiamo a casa, restiamo insieme anche oggi, lontani ma vicini, perché possiamo farcela, a patto che, come ripetiamo sempre, ciascuno, nessuno escluso, faccia la sua parte. 349-238-6666, se volete intervenire con messaggi, sms e vocali. Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, già mi porta avanti e lo ringrazio, così come in assistenza Giorgio De Luca, in redazione Laura Vanossi. Intanto saluto il professor Luigi Lopalco, epidemiologo all'Università di Pisa, che attualmente è a capo, alla guida della task force scientifica della regione Puglia per l'emergenza coronavirus. Professor Lopalco, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professor Lopalco, questa è una settimana importante perché probabilmente in questa settimana, il prossimo weekend, potremo vedere i segni tangibili delle misure restrittive intraprese. Partiamo da qua. Allora, guardi, i segni delle misure ovviamente sono diversi a seconda della fase in cui si trova localmente l'epidemia. Cioè, in Italia non abbiamo una sola epidemia, abbiamo tante epidemie che si trovano sfasate in termini temporali l'una dall'altra. Faccio un esempio, l'Italia certo. Spesso è lunga, è ovvio che l'epidemia al nord è iniziata prima, l'epidemia al centro un po' dopo, l'epidemia al sud qualche giorno dopo. Quindi queste misure di chiusura, quelle di distanziamento sociale, sono tanto più efficaci, tanto più precocemente sono messe in atto. Quindi capisce bene che l'efficacia di queste misure nella situazione lombarda si vedranno di meno e probabilmente si vedranno più tardi, nelle altre regioni dove ancora la curva di crescita non si è impennata potranno avere un'efficacia maggiore. Quindi dobbiamo osservare attentamente tutta la situazione, ma soprattutto avere un quadro chiaro della situazione a livello locale. Certo. Professor Lopalco, mi piace sempre sottolineare una buona notizia e io parlerei proprio della Puglia, che al momento nella regione l'andamento dei casi di contagio è più lento rispetto alle previsioni. Professore, quali sono i fattori che potrebbero essere in gioco nel rallentare il contagio? Lei ha sottolineato nella sua risposta che insomma ci sono delle zone differenti, la Lombardia naturalmente ha una situazione molto diversa da quella della Puglia, ma parliamo della Puglia, quali allora, sono guardi, i fattori che hanno permesso questa sorta di rallentamento? Certo, come dicevo, questo è un incendio. Gli incendi, non solo bisogna spegnere gli incendi principali, cercare di circoscrivere l'incendio principale che non si riesce a spegnere, ma bisogna spegnere tutti i focolai in maniera che l'incendio non si propaghi. Allora, il lavoro forte che si sta facendo oggi in Puglia è proprio questo, è un lavoro da pompieri, c'è un esercito per la strada che sono i colleghi dei dipartimenti prevenzione dell'igiene pubblica che stanno andando casa per casa a spegnere gli incendi. Cioè, ogni volta che c'è un caso sospetto bisogna cercare di immediatamente tenerlo lontano dalla comunità, quindi creare quella che noi diciamo la contumacia, la famosa quarantena, e fare immediatamente il tampone appena compaiono i primissimi sintomi, anche i segni più lievi, in maniera da sapere se questo è un caso positivo o negativo. Però intanto lo dobbiamo mettere in sicurezza, lo dobbiamo tenere lontano dalla comunità in maniera che il contagio non si propaghi. Questa è un'azione fondamentale, ed è fondamentale proprio per cercare di evitare l'impennata. Ovviamente accanto a questa azione abbiamo le misure generali che il governo ha preso di distanziamento sociale, che certo, se fatte in maniera seria, con la responsabilità di tutti, hanno un impatto importantissimo. Professore, invece veniamo al caso della Lombardia. La domanda è ricorrente, ma come si possono spiegare gli elevati tassi di contagio e di letalità rispetto agli altri focolai? Professor Lopalco. Allora, guardi, si spiega purtroppo con quello che è l'andamento di un'epidemia di questo genere. Cioè, questo virus, se si lascia libero di correre, ha un andamento che a un certo punto è esponenziale. Cosa significa? Che nel giro di 2-3 giorni i casi raddoppiano. E ovviamente se i casi raddoppiano da 10 a 20 neanche ce ne accorgiamo, ma quando si raddoppia da 1000 a 2000 e poi da 2000 a 4000 succede il disastro. Non esiste un sistema sanitario al mondo che riuscirebbe ad accogliere questa onda d'urto di casi di polmonite. Questo è quello appunto che è successo in Lombardia ed è quello che dobbiamo evitare assolutamente nel resto d'Italia. Cioè dobbiamo evitare che l'impennata della curva epidemica arrivi a quei livelli, perché a quei livelli davvero, vedete, i sistemi vanno in tilt. Cosa sia successo si capirà dopo, si capirà con gli studi più dettagliati sui dati. Sicuramente la Lombardia ha pagato il prezzo di essere stata la prima regione ad essere colpita e ovviamente quando arriva un nemico invisibile nuovo si è meno preparati e chiaramente la circolazione del virus, che è andata in giro in maniera appunto silenziosa e molto subdola, ha fatto sì che i provvedimenti sono stati presi quando ormai la curva di crescita era in questa fase, cioè quando era ormai un po' troppo tardi, per cui dobbiamo imparare da questa lezione e dobbiamo fare in modo nelle altre regioni di non abbassare assolutamente la guardia, anzi alzare la guardia in questo momento, dobbiamo alzare la guardia, certo, in questo momento, per evitare di arrivare a quel punto, al punto in cui i sistemi non possono più essere in grado di accogliere tanti casi di polmonite. In questi giorni un position paper a cura della SIMA, che è la Società Italiana di Medicina Ambientale, insieme all'Università di Bari e di Bologna, ha suggerito un nesso tra polveri sottili e diffusione del virus. E in linea con noi abbiamo il professor Alessandro Miani, che è presidente della SIMA. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E benvenuta a Obiettivo Salute. Professore, su quali basi è stato scritto il position paper e quali suggerimenti sono emersi? Le basi sono una solida letteratura scientifica internazionale che ci dice che in alcuni casi è stato dimostrato che alcuni virus possono legarsi al particolato ed essere da questi trasportati, come per esempio il virus del morbillo e il virus della viaria, ma anche altri virus. E contemporaneamente che il particolato atmosferico a certe condizioni di umidità e di temperatura può lasciare in vita il virus trasportato per alcune ore. E siamo arrivati a queste conclusioni, perlomeno a questa evidenza, a questa prima evidenza di uno studio tuttora in corso, andando a verificare quelli che sono stati tutti i dati delle centraline ARPA in un certo periodo di tempo e poi a 14 giorni data abbiamo letto e studiato i numeri dei casi di Covid-19 conclamati pubblicati sul sito nazionale della Protezione Civile e abbiamo visto che in quelle aree in cui erano stati superati più volte in maniera abbondante i limiti imposti per legge di PM10, ebbene c'erano state delle anomale curve di crescita delle infezioni da Covid. Si tratta, ripeto, di un'evidenza che noi abbiamo riportato su un position paper, che altro non è che una piattaforma di condivisione e di discussione costruttiva tra ricercatori. Ma abbiamo ritenuto importante, visto che stiamo in una situazione di emergenza, portare questa evidenza anche all'attenzione del decisore e anche all'attenzione della cittadinanza per un principio legittimo di precauzione. Questo in poche parole che cosa significa? Significa che stando a questa evidenza, che ripeto usiamo sempre il condizionale, il particolato atmosferico può fungere o potrebbe fungere da booster, ossia da acceleratore in certe condizioni, ovviamente. Ma mi scusi, professor Miani, cioè, mi scusi, professore, intanto andiamo poi subito, le faccio una domanda e andiamo poi subito alle informazioni sul traffico e ritorniamo. Certo. Ma c'è una correlazione o c'è un nesso di causa e effetto tra inquinamento e diffusione del virus? Torniamo subito tra poco, dopo le informazioni Perfetto. Sul traffico, insieme al professor Lopalco e al professor Miani. Obiettivo salute. Eccoci qua in linea con noi Alessandro Miani, Luigi Lopalco. Insieme stiamo leggendo quanto suggerito dal position paper che riguardo al nesso tra polveri sottili e diffusione del virus in Lombardia. Professor Miani, c'è un nesso di causa effetto o una correlazione? È una sorta di correlazione, nel senso che noi abbiamo evidenziato questo dato e evidenziandolo vogliamo, come le dicevo, portare all'attenzione anche del decisore, dei decisori e delle istituzioni. E delle istituzioni, perché quello certo, che la oggi comunità è scientifica si interroga e lavora. Professor certo. Lopalco, lavori in corso, qual è il suo punto di vista? Ma è un'ipotesi interessante, deve essere vagliata. Quando ci saranno, diciamo, dei risultati robusti, saranno pubblicati e li prenderemo in considerazione. Allora, quello che io mi permetto di dire dal punto di vista epidemiologico è che dobbiamo anche un po' guardare quello che è successo in Cina. In Cina il virus, come già noi sappiamo, camminava con le persone. Quando le persone sono state chiuse in casa, il virus non ha camminato più. Voglio dire, città come Pechino sono state dove i livelli di inquinamento sono impressionanti, non paragonabili a quello della pianura padana. A Pechino non abbiamo avuto quello che è successo in Hubei e a Wuhan, perché le persone non hanno camminato. Quindi comunque resta ferma l'evidenza che abbiamo oggi, cioè che il virus cammina con le gambe delle persone. Quindi questa rimane l'evidenza più forte. Poi ovviamente la comunità scientifica ragiona, discute, si interroga, indaga, certo, ben si venga confronta. Questo, ben venga questo. Professor Miani, sicuramente comunque tra i vantaggi, no, delle misure restrittive c'è che l'inquinamento ma è diminuito. Senza nessun dubbio, guardi, io su quello che ha detto il professor Lopalco adesso concordo, il virus cammina come leggevo da una sua dichiarazione sulle nostre gambe. Quello che noi diciamo è semplicemente che da questa prima evidenza, ripeto, condizionale sempre, il metro di distanza considerato di sicurezza in certe condizioni potrebbe non essere sufficiente, potrebbe. Quindi concretamente, nell'attesa che si arrivino ulteriori risultati e conferme, quali sono le vostre indicazioni? Entriamo nella quotidianità, professor Miani. Le indicazioni sono innanzitutto quelle di seguire in maniera pedissicamente tutte quelle che sono state i dettami del governo, delle regioni, delle autorità locali, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E stando a questa evidenza che noi abbiamo pubblicato su un position paper, per un concetto, ripeto, sempre di precauzione, cercare di ridurre al minimo la frequentazione delle persone e al massimo certo. le distanze tra le persone, in attesa quindi distanti, di avere una distanti verifica. E leggiamo anche le nostre case, professore. Guardi, facciamo un po'. Nelle nostre case è risaputo, case o comunque in tutti gli spazi confinanti, è risaputo esserci una quantità di inquinanti atmosferici che è mediamente 5 volte superiore rispetto all'esterno. Però nel momento in cui sentivo oggi un'intervista televisiva del professor Villani, molto molto interessante, e diceva giustamente: se noi ci troviamo in casa e siamo all'interno di un nostro gruppo familiare e siamo sani, è difficile, voglio dire, oramai siamo lì, se ci proteggiamo tra di noi, certo. un po' di ariazione in casa fa sempre bene. Dai, almeno al mattino quando ci mettiamo a fare i lavori. Professor esatto. Miani, voglio dare risposta ad un ascoltatore. Ecco. Scusi, professore. Professore, scusi, le interrompo per rispondere ad una domanda. Con i condizionatori accesi, che il nostro ascoltatore pensa già all'estate, potrebbe trasmettersi nuovamente la diffusione del contagio? Professor Lopalco, faccio rispondere a lei prima di salutarvi. Diciamo l'accensione di un condizionatore in casa non vedo come possa né favorire né impedire la circolazione di un virus. Ripeto, il virus si trasmette principalmente da persona a persona, se fa caldo accendiamo pure il condizionatore. Il virus si trasmette con le punture di insetto? Così rispondiamo anche a questa domanda. No, possiamo stare tranquilli, per il momento non c'è nessuna evidenza. Professor Miani, professor Lopalco, vi ringrazio per essere stati con noi. Ci sentiamo presto. Grazie. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie per il vostro lavoro, per la vostra disponibilità. Io resto a casa e canto. Con questo hashtag do il benvenuto al presidente della Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche, che ha realizzato, come ben saprete, l'inno dei medici contro il coronavirus. Il testo è stato scritto appositamente dal maestro Giulio Rapetti, il grande mogol, sulle note del mio canto libero, un classico favoloso della canzone. Lo ascoltiamo insieme. Buongiorno intanto dottor Vimercati, grazie per essere con noi, cantiamo insieme. Buongiorno a tutti. Tutto passerà e sorriderai, non ce la faremo, sì, tu lo vedrai. Adesso resta a casa, esci solo per la spesa. Adesso resto a casa, esci solo per la spesa. Il messaggio dell'inno dottor Vimercati, che ricordiamo è cantato e suonato dai medici, è rilanciato sui social della FISM e del Ministero della Salute, è diventato virale. Avete fatto centro, il messaggio è molto chiaro, c'è l'invito a restare a casa, ma al tempo stesso c'è anche un messaggio di speranza. Dottor Vimercati. Sì, lo scopo è stato proprio questo, di dare una mano alla collettività in questo momento di estremo bisogno e soprattutto di far vedere come i medici si giocano in prima linea in questo momento di grande crisi per il sistema, anche con un motivo molto noto, molto famoso, in cui la modifica di parole favorisce il discorso nel dire state a casa. Noi siamo qui, stiamo lavorando, ma state a casa, perché questa è la cosa più importante. Quindi è una medicina per il popolo, medicina per l'anima in questo momento. Non è tanto una medicina per il singolo, ma è una medicina per tutti. Questa è la cosa più importante che abbiamo voluto fare, coordinando le varie specialità, perché chi suona sono specialisti di varie specialità. Così come l'approccio alla malattia è fatto da vari specialisti, non da cioè molti È una squadra, dottor Vimercati, come diciamo sempre. Voi avete fatto cantare i medici insieme, ma la FISM vuole fare la stessa operazione con le società scientifiche, invitandole a confrontarsi, naturalmente, per collaborare, ma anche per avere una voce sola. Sì, dottor Vimercati, questa è anche un po' la vostra nuova sfida. Assolutamente sì, nel senso che noi siamo il collante delle società scientifiche. Non vogliamo sovrastare la singola società scientifica, ma bisogna fare in modo che si parlino. Per questo abbiamo sottoscritto un accordo formale con l'Istituto Superiore di Sanità, che sta facendo una grande opera in questo momento di crisi, proprio perché l'Istituto Superiore di Sanità metterà a disposizione una serie di informative FAD, cioè quindi corsi di formazione FAD, che giocando il ruolo sul portale del Ministero farà in modo che non tanto le linee guida, che il problema non è questo, in questo momento è qual è il comportamento migliore che viene da attuarsi, ma per le singole specialità. Se io faccio in modo che questa informazione vada linearmente sul sito della singola specialità, non ottengo il risultato di mettere tutto in fila e quindi il pneumologo vede quello che fa l'anestesista, vede quello che fa il resto. Assolutamente, una voce, il confronto, ma da cui emerge una voce sola. Dottor Vimercati, proprio in chiusura vedo già che è in collegamento il nostro medicuoco quasi cuoco. State pensando anche a uno strumento per dare ai cittadini la possibilità di fare una sorta di autovalutazione? Nel momento di crisi le cose più semplici sono quelle che portano risultati migliori, quindi il risultato migliore può essere dato da un'app che stiamo realizzando, che è già in funzione che permette di fare una specie di check-up da parte del singolo, quindi un'autovalutazione del singolo, in cui confrontandosi con i sintomi e dando un peso a questo, ho dei livelli di attenzione. Questi livelli di attenzione possono portare verso il collegamento con il medico curante o con le strutture solo in quei casi in cui i sintomi mi indicano questo, e quindi possono da un lato mettere tranquilli chi non ha sintomi particolari, ma dall'altro campo allertare, eccetera. Un check-up del genere diventa difficile perché le persone non sanno come vedere questo check-up. Questa app potrebbe aiutarli. Dottor Vimercati, quindi appuntamento appena è disponibile per tutti. Io l'aspetto a Obiettivo Salute. Intanto la ringrazio. Grazie mille a lei. Grazie a tutti. Dottor Erzegovesi, i nostri minuti sono scappati, ma una nuova sfida ci attende. Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti. Il nostro medicuoco quasi cuoco questa settimana ci aiuterà a trovare il tesoro in dispense e anche in frigorifero, magari un po' la verdura che è un po' spentina, il pane raffermo. C'è qualcosa di prezioso in questi alimenti, anche quelli che ci sembrano un po' così, no? Lì per lì. Dottor Arzegovesi, ho parlato io al posto, vero? Abbiamo 30 secondi per invitare i nostri ascoltatori. Introdurre il tema di questa settimana: possiamo essere esploratori nel mondo, possiamo essere esploratori a casa vostra, ancora di più esploratori nel nostro frigorifero o nella nostra dispensa, e quindi vi daremo dei trucchetti per poter sfruttare al meglio magari un cibo che non è più tanto buono, un cibo che in questo momento è andato a male ma si può ancora recuperare, certo. Un recupero, dottore, ma con un'idea scientifica. Quindi rimandiamoli sulla pagina Facebook. A domani, grazie.